24. La storia. A Corleone, la villa di Totò Riina, capo dei capi, è un bene confiscato alla mafia. Uno dei tanti, che oggi ospita un agriturismo restituito alla società. Tutto questo ha inizio molti anni fa, grazie ad una legge e all'uomo che per primo l'ha voluta. Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente. Articolo 416 bis. Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. È la legge Rognoni La Torre, la legge che introduce il reato di associazione mafiosa e stabilisce, tra l'altro, il sequestro dei beni dei mafiosi. Uno strumento decisivo nella lotta alla mafia che si deve al sacrificio di Pio La Torre, deputato del PC, il primo parlamentare a essere ucciso da Cosa Nostra. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la sua storia. Il 30 aprile dell'82, alle 9:27 del mattino, il dirigente comunista muore insieme al suo autista Rosario Di Salvo in un agguato nel cuore di Palermo. Buongiorno, ancora un tragico agguato contro un uomo politico. A Palermo è stato assassinato con il suo autista l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale ed ex componente della direzione del Partito Comunista Italiano. Finora nessuna rivendicazione. E quello contro la mafia per Pio La Torre è stato l'impegno di tutta una vita. Eletto nel 1972 a Montecitorio, nel 1981 Pio La Torre chiede di tornare in Sicilia come semplice segretario regionale. Si sente troppo lontano dalla sua terra e soprattutto pensa che sia ora di tornare in prima linea. Ma dietro a questa decisione c'è anche un altro motivo. La Torre, infatti, è contrario alla decisione del governo Spadolini di accogliere i missili NATO a Comiso, in provincia di Ragusa. E lo dichiara lui stesso intervistato l'11 ottobre 1981. Noi non vogliamo che la Sicilia diventi un avamposto di guerra, ma una base di pace, un punto di riferimento per l'intesa, la collaborazione pacifica di tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo. Pio La Torre riteneva che lì a Comiso si sarebbe sviluppata, grazie alla presenza degli americani, una battaglia di droga, di armi, un centro di potere della mafia italo-americana. Poi naturalmente questo è portato ad un effetto di militarizzazione. In un'area militarizzata la mafia ha più immunità perché c'è meno possibilità di lotta politica nei confronti di queste organizzazioni. Quindi era questa la preoccupazione di fondo di La Torre, oltre al dissenso sulla questione dei missili. Erano le voci di Domenico Bacchi, amico di Pio La Torre, e di Luciano Violante. È il 20 novembre 1981 e Pio La Torre organizza a Palermo una manifestazione contro le basi NATO. Secondo le sue stesse parole, è una manifestazione storica. Ascoltiamo Alfredo Reichlin e l'avvocato Armando Sorrentino. La manifestazione di oggi si preannuncia la più grande manifestazione popolare che Palermo abbia mai conosciuto nella sua storia. E fu sorprendente il successo. Dire la verità, io non ci avrei creduto che lui riuscisse a mettere insieme un movimento così vasto. Un movimento di massa che non ha precedenti in Sicilia se non andando indietro al movimento per l'occupazione delle terre, ma con una originalità notevolissima, perché mette assieme pezzi della Democrazia Cristiana, addirittura di questa Democrazia Cristiana, e anche l'intero Partito Socialista. I socialisti, non dimentichiamo che in quel momento avevano il ministro della difesa Lagorio, che era uno che spingeva per l'installazione dei missili a Comiso, e i socialisti siciliani invece con La Torre fanno le manifestazioni e contestano questa scelta. La nostra parola d'ordine resta la richiesta al governo italiano di sospendere la costruzione della base missilistica a Comiso come contributo originale dell'Italia alla creazione del clima più favorevole per il successo del negoziato ginevrino. Questa è la posizione di questa manifestazione. Beh, la posizione del governo era giusta, doverosa, Poi ha avuto il suo risultato, perché sono stati smantellati gli strumenti di offensive dell'Unione Sovietica, così come poi si sono smantellate gli strumenti difensivi e offensive della NATO. Avete sentito Virginio Rognoni, ministro dell'interno dal 78 all'83, che insieme alla Torre ha scritto la legge che porta i loro due nomi. Pio La Torre dunque viene ucciso nel pieno di una battaglia che secondo lui è contro la guerra, ma anche contro la mafia. Ma perché è stato ucciso Pio La Torre? Quale pericolo per la mafia rappresentava la sua battaglia contro i missili a Comiso? E inoltre, contro di lui hanno giocato anche altri interessi? Per capire chi e perché ha ucciso Pio La Torre dobbiamo allora ripartire dalla sua storia. È il 24 dicembre del 27 quando nasce ad Altarello di Baida, frazione di Palermo. La famiglia La Torre è composta da 5 figli, 2 femmine e 3 maschi. Pio è il più piccolo e la madre, riconoscendone le doti, vuole che studi. Ce ne parlano gli amici Domenico Bacchi, poi Lucia Mezzasalma e Franco, figlio di Pio La Torre. Ha l'amore per studiare. Lui capisce che non quel lavoro che sta facendo lì, che suo padre gli vuole fare del zappare, coltivare il terreno, non porta da nessuna parte. A 12 anni già andava e veniva dalla scuola a piedi, c'erano picciole per l'autobus. E lui ha bisogno di impadronirsi dalla cultura, il termine che usava era questo, impadronirsi, perché se tu sei colto ti puoi difendere e puoi difendere gli altri. Se sei ignorante, basta. Pio non aveva paura di combattere la mafia da quando un ragazzino, nella zona dove suo padre e suo fratello avevano il terreno, c'erano i mafiosi che facevano il bello e cattivo tempo. Lui sin da allora, ma allora non era comunista, era un giovane, sin da allora cominciò ad avere a fare critiche alla mafia. È uno dei motivi per cui lui va via da Altarello. Il padre gli dice chiaramente: qui, caro Pio, se tu fai questa scelta a noi ci ammazzano, e tu che stai a fare qui vattene via. E infatti mio padre se ne va, perché gli avevano già dato fuoco alla porta della stalla di famiglia. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24, quella che raccontiamo oggi è la storia della lotta politica di Pio La Torre, che in Sicilia significa anche e soprattutto lotta contro la mafia. Dopo aver abbandonato Altarello, Pio La Torre si trasferisce a Palermo, dove trova sistemazione di fortuna. È il 1948, a soli 21 anni, diventa responsabile giovanile della CGIL e responsabile organizzativo del Partito Comunista Palermitano. E proprio nella sezione del Partito Comunista fa l'incontro più importante della sua vita, quello con Giuseppina Zacco, sua futura moglie. A raccontarcelo sono lei stessa e poi il figlio Franco. Ci siamo conosciuti in federazione, la federazione del Partito Comunista, che io sono entrata e dietro al tavolo c'era questo ragazzo. Che mi dice: ma che fai? Sto entrando perché mi voglio pigliare la tessera del partito. L'hai letto Lenin, l'emancipazione della donna? No. E allora leggiti prima questa e poi vieni. E con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare. Dopo 2-3 giorni ci sono ritornata. Cioè, te l'ho letta un pochettino. Allora possiamo discutere, aspetta che io vengo con te. Ma le gambe, a me piacciono di più. Bello, proprio bello. E nella mia testa dissi: questo me lo devo sposare. Volle che io andassi a casa sua a conoscere i suoi, poi se ne pentì però, perché siamo arrivati lì, allora c'era sorella Felicia che fa: le sai cucinare le uova? Io non ero mai entrata in cucina perché mia madre proibiva di entrare in cucina, c'erano i camerieri, per lavorare. E sì, le sa fare due a Ventagamino, sì. Chi l'aveva mai visto fare due a Ventagamino? Allora mi diede su Tegamino e su due uova in mano. Disse, come si fa? Ah, allora non li sa fare. Pio, vedi che chi non sa fare niente. Capisci? Poi mio padre si chiamò Pio, se lo portò nello studio medico, che era la porta accanto, ma io non sentivo niente, per farci la visita generale dalla testa ai piedi, per sapere se andava bene o non andava bene, se aveva malattie, se non aveva malattie. Poi sì, tutto a posto, va bene. Era uno molto testardo, cocciuto, se si metteva una cosa in testa, alla fine ti convinceva di quella cosa. Certe volte mi sono reso conto che lo avevo messo duramente alla prova e che io forse al posto suo, se qualcuno, se un figlio mi si fosse rivolto in quel modo, forse avrei perso un attimo il controllo. E mi ricordo ancora discussioni dove io per esempio rifacciavo non alzare la voce con me così quando parliamo, però lui ce l'aveva, diciamo, spontaneamente, come ce l'ho anch'io, quella passione che uno mette nelle cose, che fa sì che certe volte alzi il tono della voce, ma non perché tu voglia aggredire l'altro, ma perché proprio ti lasci trascinare dalla foga. Così era anche lui, e io, pensando che quello fosse un suo punto debole o cercando, come certe volte fanno i genitori con i figli, di metterlo in difficoltà, dicevo smettila, e penso che di averlo provocato, ma lui, educato alla scuola del non si accettano provocazioni, mi lasciava dire, sfogare e poi continuava. Un carattere tenace e determinato, insomma, anche in famiglia. L'incontro tra Pia La Torre e Giuseppina Zacco avviene in mesi di dura battaglia politica che vedrà la Sicilia macchiarsi di sangue. Siamo alla vigilia delle elezioni del 48 e la banda di Salvatore Giuliano terrorizza la popolazione. Il 10 marzo del 48 a Corleone la mafia uccide un sindacalista. Il suo nome è Placido Rizzotto. Ma tutti lo chiamano Vento del Nord perché con i suoi discorsi incita i contadini a non abbassare mai la testa. A sostituirlo alla guida della Camera del Lavoro di Corleone sarà proprio lui, Pio La Torre, che nel 49 pronuncia questo discorso. Nel nome di Placido Rizzotto dobbiamo lottare uniti per la giustizia contro l'arroganza della mafia e dei campieri che vogliono le nostre terre. Noi dobbiamo continuare ad occuparle perché la terra non è dei signori che la lasciano incolta, ma di chi la lavora. Nel 1949 il Partito Comunista in Sicilia guida le grandi occupazioni delle terre a fianco di Pio La Torre, Emanuele Macaluso, Lucia Mezzasalma e Domenico Bacchi, che così ricordano quel momento. Ci fu una grande ondata dopo il 48, dopo una seconda ondata di grande occupazione di terre che c'erano state nel 46, nel 47, e pensavano che con la vittoria del 48 della Democrazia Cristiana, la sconfitta del Fronte Popolare, tutto si sarebbe fermato. Invece nel 49 abbiamo ripreso il movimento dei contadini. Era combattere contro i padroni, ma i padroni erano accompagnati dai campieri e dalla mafia protette pure. E noi, occupando le terre, avevamo un colpo al potere mafioso agrario della Sicilia. Incidevamo profondamente. Quando tu vai a occupare il feudo Giuliano, dove allora Messana diceva che nessuno poteva avvicinarsi al feudo di Giuliano, e noi siamo andati lì a piantare le bandiere rosse, abbiamo detto che il potere di Giuliano non era un potere invincibile, che le masse contadine riuscivano a conquistare il quartiere generale di Giuliano. Io guidavo quella mattina il corteo del Bisaquino. Era lungo 4-5 chilometri. C'erano 5.000 o 6.000 persone che marciavano come un esercito pacifico, ma fermo nelle intenzioni. Vidi arrivare una colonna di automezzi. Centinaia di agenti e carabinieri si appostarono in assetto di guerra ai bordi della strada. Un gruppo di carabinieri si fece avanti verso la testa del corteo e tentò di strappare le bandiere dalle mani delle donne. Dalla massa dei contadini partì una sassaiola contro i carabinieri. A quel punto il commissario Panico diede ordine di sparare. Avete sentito le parole di Pio La Torre. Il 10 marzo del 1950 è alla testa del corteo di contadini di Bisacquino per l'occupazione di quasi 2000 ettari di terreno del feudo Santa Maria del Bosco. A parlarcene Emanuele Macaluso e Lucia Mezzasalma. Un commissario di pubblica sicurezza, falsamente, dichiarando il falso, disse che La Torre gli aveva dato un colpo di legno. L'arrestarono e quando lo misero sul calacamionetta o camion addirittura, mia sorella si è fermata, era a cavallo, gli fece un sorriso, a Pio gli è schiacciato l'occhio, come dire ci daremmo da fare, ora tu annesci del gioco. E invece Pio La Torre rimarrà a Luciardone per un anno e mezzo. Chiuso in cella di isolamento, gli verrà negato di vedere la madre morente. Dovrà aspettare inoltre molto tempo prima di riuscire a riabbracciare la giovane moglie incinta. Così descrive la sua prigionia nel libro Comunisti e Movimento Contadino in Sicilia. La scena era davvero orribile. I detenuti erano dietro una porta di ferro con tanti buchi. Ognuno infilava la testa dentro un buco. In mezzo c'era un corridoio dove passeggiava un agente di custodia. Di rimpetto c'era l'altra porta di ferro, dalla quale sporgevano le teste dei familiari. Sembrava una bolgia. I detenuti urlavano per farsi ascoltare dai familiari e viceversa. Rimasi davvero sconvolto. Non riuscivo a dire nulla. Figuriamoci mia moglie. Aveva gli occhi pieni di lacrime e mi guardava con un sorriso carico di sofferenza. Tremendo fu. È tremendo vederlo in carcere, perché c'erano i colloqui speciali, che erano quelli così, io e tu, e una lastra. I colloqui invece, quelli ordinari, che erano 4 volte al mese, 3 volte al mese, invece erano dietro una grata. Quando ci sono andata per dirsi di Pippo che era nato, e quel giorno venne con tutte le catene ai piedi e ci disse: ti devo dare una bella notizia. E lui mi fa: la riforma agraria approvata, la nascita di un figlio maschio. 1, 2. Ma arriva a capire. Poi una grande impressione, questa ce l'ho ancora davanti agli occhi e l'odore nel naso. Quando uscì dal carcere, io e mia madre siamo andati davanti al portone del carcere ed esce Pio. Pio che cammina per 50 metri, mezza stanza. Lo vedo giallo, giallo, perché era stato chiuso, figurati. Però giallo, mi fece un'impressione. Si avvicinò per abbracciarmi, la puzza tremenda. Di carcere, di acido fenico, una cosa da morire. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia di Pio La Torre. Il 23 agosto del 51, dopo un anno e mezzo di carcere, viene scagionato da ogni accusa e può tornare alla politica. La sua carriera è folgorante. Nel 52 siede nel Consiglio Comunale di Palermo, diventa anche segretario regionale della CGL prima e del PC siciliano poi.

Tu puoi mandare in galera il mafioso e lui si lamenta ma non muore. Se invece gli tocchi la tasca, i beni, il sequestro dei beni, lì diventa un vero problema, perché quella è la cosa a cui tengono di più. Quindi una legge come quella che poi sarebbe diventata la legge Rognoni-La Torre li aveva messo parecchio in apprensione. Detto questo, sì, posso aggiungere, certo, una cosa? Certo. Io sono d'accordo, e forse non solo io, ma prima di me ben altri avevano un'idea leggermente diversa di come era andata la storia di La Torre. Cioè Giovanni Falcone era convinto che l'omicidio della Torre, insieme con altri omicidi, costituisse un nucleo di operazioni politiche in cui Cosa Nostra fungeva da esecutore materiale, ma mandanti e moventi erano da ricercare, diciamo, nei piani più alti della mafia. Quali? Alcuni interessi prevalentemente economici, finanziari e poi anche quindi politici, ma in senso lato. Quali potevano essere? Ma la finanza, i soldi, dove ci sono soldi ci sono interessi più o meno puliti. In Sicilia, la storia della Sicilia ci dice che ci sono stati omicidi compiuti dalla mafia, ma che lasciano intravedere ben altre personalità alle spalle dei mafiosi che hanno sparato. Su questo c'è stata una diatriba che non è finita più. Giovanni Falcone, quando era procuratore aggiunto di Palermo, si rifiutò di firmare l'istruttoria sugli omicidi politici di Palermo, perché riteneva che le indagini fossero arrivate a un certo punto, ma che meritavano un approfondimento e quindi la necessità di andare più a fondo per cercare altre responsabilità. Per dirtene una, Falcone voleva andare a Roma a indagare su Gladio, sì, in relazione proprio agli omicidi politici, e non gliel'hanno fatto fare. E quindi? E noi siamo oggi a una condanna definitiva della cupola, che ha condannato gli assassini di Pio La Torre in base al famoso teorema Buscetta, cioè a quel teorema che dice che, siccome la cupola è responsabile di tutto quello che ha compiuto Cosa Nostra, tutti gli omicidi sono da attribuire a questo organo deliberativo della mafia. Ma qual è il legame, se c'è, con l'omicidio di 2 anni prima di Piersanti Mattarella? Allora, abbiamo detto che La Torre stava facendo questa cosa rivoluzionaria della legge sul sequestro dei beni, ma non solo sul sequestro dei beni. Ricordiamoci che proprio l'omicidio La Torre darà il via al Parlamento per una riforma del codice di procedura penale, che finalmente introduceva l'articolo 416 bis, sì, che finalmente condanna per associazione mafiosa, l'associazione mafiosa e la semplice appartenenza alla mafia, mentre prima questo non era possibile, perché per dare all'associazione mafiosa bisognava accoppiare l'appartenenza alla mafia ad un reato specifico. Mentre questo era quello che ha fatto La Torre, 2 anni prima Piersanti Mattarella aveva dato una svolta alla pantomima politica siciliana, in cui la mafia non esisteva e tutti erano buoni. Perché quindi fu ucciso Piersanti Mattarella? Le ipotesi sono più di una. I moventi sono: uno, più terra-terra, cioè che lui voleva rivoluzionare il sistema degli appalti alla regione siciliana. Aveva persino ipotizzato la rotazione dei capi di partizione negli assessorati, che è una rivoluzione copernicana questa, perché mentre l'assessore cambia e la mafia poi ne assimila uno per volta, il burocrate rimane nello stesso posto anche per 20-25 certo, anni. Quindi è lì che bisognava intervenire, e lì Mattarella cercò di intervenire. Si mise in contrasto con Ciancimino, perché gli bloccò un appalto per la costruzione di 5 scuole, e poi aprì ai comunisti, come aveva fatto Moro, non casualmente già era stato eliminato. Cercò di allargare le intese per cambiare la guida della politica in Sicilia, e non ci riuscì, come non ci è riuscito Moro prima. Questo è chiaro che sono preconcetti, vi potete dire da parte mia, però sono cose che sono accadute, sono sotto gli occhi di tutti, anche diciamo affrontate nelle motivazioni della sentenza. Francesco Lalicata, ma la mafia oggi com'è cambiata rispetto ai tempi di Pio La Torre? È cambiata perché è molto più debole. Ai tempi di Pio La Torre era un'organizzazione perfetta, era un'organizzazione in grado di condizionare l'economia, la finanza, la politica del paese, non della Sicilia, del paese. Ma quindi non uccide più? Non uccide per due motivi, secondo me. Primo, perché non ha più la forza, oggi non la vedo in grado, non vedo una Cosa Nostra in grado di organizzare un attentato come quello di Capaci o di Via D'Amelio. Ma per fortuna adesso abbiamo una mafia, diciamo, tornata ridimensionata, come era ai tempi degli anni 60, quando faceva le estorsioni e governava il territorio. Io credo che siano venuti meno un po' i legami diretti con la politica. E una dimostrazione di questo potrebbe essere il fatto che le mafie hanno finito per invadere il nord, quindi andare a cercare territori vergini dove passano ancora inosservati e nessuno capisce la pericolosità.